ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. In primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. E comincerei dalla copertina dell'Economist che, come sempre, da un po' di tempo cerca di trattare, andando un pochino oltre la cronaca, il tema della pandemia. E questa copertina è dedicata al fatto che ci sono, a questo punto lo possiamo dire, sono passati ormai, se ci pensate, più di 6 mesi dall'inizio di questa pandemia, possiamo quindi fare dei confronti tra come i diversi paesi si sono comportati, e l'Economist lo fa giungendo, con l'attenzione e la cautela che si deve a una situazione in perenne evoluzione, e giunge alla conclusione naturalmente che, nonostante ci fossero all'inizio i fautori del modello svedese, che non ha effettuato, la Svezia non ha effettuato un lockdown economico così stringente come quello per esempio dell'Italia, e nonostante in altri casi si potesse sperare in una sorta di immunità di gregge, è il caso del Regno Unito, alla fine le misure più drastiche, e veniamo all'Italia con orgoglio, bisogna dirlo, comunque allo stato delle cose hanno dato dei buoni risultati. Il New Scientist, che è un settimanale interamente dedicato alla scienza, di, potremmo dire, di alta divulgazione, invece ha in copertina una mappa del mondo, la cifra di 1 milione di morti si sta avvicinando, forse addirittura è già stata superata, e il tema che affronta il New Scientist è quello dei vaccini, perché lo avete sentito sicuramente, prima i proclami da Mosca di Vladimir Putin, che dice di essere molto vicino con gli istituti di ricerca del suo paese alla somministrazione al grande pubblico del vaccino. Poi più o meno le stesse cose le abbiamo sentite dalla Cina, naturalmente le abbiamo sentite più volte da Donald Trump, e allo stesso tempo tutte le autorità sanitarie più rispettate, sulla base di quello che è successo in passato e di virus affrontati tutto sommato in un recente passato, pensiamo all'Ebola e naturalmente all'HIV, il virus che causa l'AIDS, dicono: per una sperimentazione di un vaccino che deve essere innanzitutto efficace, e quindi bisogna vedere che questa inoculazione serva veramente a colpire il virus, non deve avere effetti collaterali, e soprattutto, visto che stiamo parlando di una pandemia, bisogna essere in grado di produrlo in grandi quantità. E quindi un po' un richiamo alla realtà. Poi naturalmente anche in questo caso vedremo, può darsi che il nuovo coronavirus, il SARS-CoV-2, segni l'ingresso in una nuova era per quanto riguarda i vaccini, però il messaggio è cautela, perché la scienza procede su una strada che è fatta degli esempi di quello che è stato fatto fino a quel momento, e su questi poi semmai si cercano nuovi progressi, nuovi passi. A proposito di, invece, della settimana della moda, che di fatto si concluderà domani, poi c'è anche qualcosa ancora lunedì, però diciamo che domani è l'ultimo giorno importante, vi segnalo un articolo che ha pubblicato Le Figaro, che è il quotidiano francese più importante, e il titolo era "Cronaca di un fiasco annunciato". Il riferimento è al fatto che questa settimana della moda è naturalmente condizionata dai protocolli anti-Covid, e quindi è in un formato che viene definito phygital, con circa un terzo degli eventi con pubblico e il restante digitali, con magari registrati, diciamo così, o filmati dal vivo. Non si tratta di ologrammi o strane figure o avatar, sono persone fisiche che in qualche modo poi si hanno realizzato dei documentari o dei filmati, oppure delle vere e proprie sfilate ma a porte chiuse, quindi riprese e poi trasmesse in streaming. Un format comunque coraggioso rispetto alla settimana di luglio, sia di Milano che di Parigi, che era stata interamente digitale. Un format che anche Parigi, che inizierà invece lunedì e lunedì, la settimana della moda, ha cercato di copiare, e quindi sembra un po' la favola della volpe e l'uva, questo titolo delle Figaro, perché fino a un attimo fa, fino a poco fa, e comunque bisogna vedere poi come andrà la settimana della moda di Parigi alla luce della aumento dei contagi. In ogni caso, naturalmente ha risposto poi il presidente della Camera della Moda italiana, perché sono accuse veramente ingenerose, appunto, da chi non ha letto la favola di Esopo, La volpe e l'uva. A proposito sempre di Italia e di giornali francesi, Le Monde invece, nell'edizione che sapete che Le Monde è forse l'unico quotidiano rimasto in Europa ad avere un'edizione pomeridiana, e quindi esce nelle edicole nel tardo pomeriggio, e quindi nell'edizione che poi si trova al martedì, che quando noi citiamo, facciamo la nostra rassegna stampa dei giornali stranieri in Effetto Mondo all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizi, citiamo ovviamente l'edizione che è uscita al pomeriggio del giorno prima, e quindi all'edizione del lunedì, del martedì di Le Monde, di martedì di questa settimana, ha parlato anche delle elezioni in Italia, con il titolo "Il temuto terremoto elettorale in Italia non c'è stato", perché naturalmente si cerca di spiegare ai francesi la complessa situazione di quello, di quel Election Day. La definizione non è mia, è stato chiamato così perché abbiamo votato, lo sapete, sia per le regionali che per il rinnovo di alcuni comuni, e poi naturalmente per il referendum costituzionale. E quindi secondo Le Monde questo voto è stato un avvertimento per i movimenti politici che in Europa potrebbero essere tentati da queste strategie eccessivamente populiste. Un interessante tema invece, spostandoci in Germania, lo ha sollevato la Süddeutsche Zeitung, che spiega si sarebbe chiuso con una transazione da 5,5 milioni di danni il procedimento che vede sul banco degli imputati la Volkswagen, accusata per il suo sostegno e per la complicità nella dittatura militare in Brasile, pensate, tra il 1964 e il 1985. L'azienda è accusata, in un processo che va avanti da anni, di aver agevolato le persecuzioni dei militanti politici che lavoravano nella controllata brasiliana della società tedesca in cambio di una politica salariale conveniente. È un, appunto, un processo che va avanti da anni, forse adesso se ne vedrà la fine, anche se naturalmente le compensazioni in denaro sono una delle soluzioni quando ci sono questo tipo di comportamenti da parte delle aziende, ma ovviamente se sono state perse delle vite, il denaro insomma è un palliativo sicuramente, però esistono appunto i processi per danni, e in questo caso pare questo concluso. Bloomberg, a proposito invece di Regno Unito, dove sapete il Premier Johnson, presentando le misure ulteriormente restrittive, prima alla Camera dei Comuni e poi in un discorso alla Nazione, e rispondendo a una domanda che gli veniva fatta di confronto ancora una volta tra la situazione, quindi la politica, la situazione nel Regno Unito e dei contagi e dei morti e dei decessi e della situazione negli ospedali e quella in altri paesi, esempio gli hanno chiesto, facendo l'esempio di Italia e Svezia, come sapete il Premier Boris Johnson ha risposto che la differenza principale è che nel Regno Unito le persone amano la libertà, tra l'altro parole che a molti hanno dato fastidio perché echeggiavano quelle più volte pronunciate da Churchill, che forse Johnson vorrebbe in qualche modo ricordare come uomo di Stato, ma naturalmente le differenze tra i due di statura, appunto, politica sono enormi. E da qui il Regno Unito ha dato spazio prima a questo discorso, tralasciando questo piccolo particolare che poi però naturalmente di cui abbiamo parlato molto noi in Italia, e poi il giorno dopo invece è stato presentato un altro piano, questo molto più concreto, del cancelliere dello scacchiere, e anche qui si è parlato molto su tutti i giornali delle parole usate dal cancelliere dello scacchiere, molto chiare ma in un certo senso anche molto dure, che possono fare una certa paura, e che sono state abbiamo preparato un nuovo schema di aiuti, sappiamo che la situazione economica non potrà che peggiorare, ma vi dico fin d'ora che non possiamo salvare tutti, e non possiamo salvare tutte le aziende, e non potremo evitare tutti i licenziamenti. E a proposito di Regno Unito, che come sapete è anche alle prese con le fasi finali della Brexit, il Boris Johnson settimana scorsa aveva presentato, ottenendo anche un voto favorevole, un piano per cambiare sostanzialmente gli accordi sulla Brexit e avviarsi velocemente a quella che a questo punto sarà una hard Brexit, cioè senza un accordo con l'Unione Europea. E Bloomberg ha raccontato questa settimana che JP Morgan, una una delle più grandi banche americane, sta spostando 230 miliardi di dollari di asset dal Regno Unito a Francoforte. E naturalmente il tema è quello che le grandi banche internazionali si stanno attrezzando per la Brexit, rafforzando le loro attività nell'Unione Europea, in altri paesi dell'Unione Europea, per continuare a servire i loro clienti anche quando appunto la Brexit sarà a tutti gli effetti una realtà. Vi segnalo poi, perché un altro tema di cui si è parlato forse fin troppo poco nelle ultime settimane, quello degli ultimi dati sulla perdita di biodiversità, ne parla la rivista Politiken, la rivista è una rivista danese e traduce questo breve editoriale internazionale in edicola da ieri, il nuovo numero, che tra l'altro dedica la copertina a un'interessante analisi di come il sistema dell'istruzione superiore, dell'università, può ripartire. È molto riferito agli Stati Uniti, ma sicuramente ci sono degli spunti che possono essere utili anche qui da noi. Ma questo editoriale in particolare inizia così: bocciata in tutte le materie, è la valutazione espressa nel rapporto pubblicato a metà settembre dalle Nazioni Unite sull'impegno della comunità internazionale per fermare la perdita della biodiversità e degli ecosistemi. Sui 20 obiettivi che i paesi dell'ONU si erano dati per il 2020 non è stato raggiunto neanche uno. E poi, visto che abbiamo detto Politiken è una rivista danese, sulla Danimarca si legge: in Danimarca un ottimo punto di partenza sarebbe il graduale abbandono delle coltivazioni sui terreni poco fertili strappati alle paludi. Non siamo un paese all'avanguardia nella difesa della biodiversità, ma da qualche parte dobbiamo cominciare. E visto che in tutta l'Europa, se non in tutto il mondo, si parla di svolta verde, sappiamo che dovrebbe essere al centro del recovery plan, perché sarà presentato per avere i soldi del recovery fund, prendiamo, magari sarebbe insomma auspicabile partire da queste parole: non siamo all'avanguardia, ma da qualche parte bisogna cominciare. Ultimissima segnalazione per oggi, sempre un articolo che trovate su Internazionale, dalla Asian Sentinel, un magazine di Hong Kong, che cerca di ragguagliarci sulle proteste, non solo quelle a Hong Kong, questa settimana è stato di nuovo fermato Joshua Wong, ma quelle in Thailandia. Gli studenti sfidano il re e chiedono riforme. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Martina e oltre mezzo milione di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.